We're going to count together up to 11. E limai go'o haa e sappo e go'o. Go'o. Didi. Tati. Nai. Joi. Diego. Jeɗɗi. Jeetati. Jeenai. Sappo. E go'o. Go'o. Didi. Tati. Nai. Joi. Diego. Jeɗɗi. Jeetati. Jeenai. Sappo. E go'o. Go'o. Didi. Tati. Nai. Joi. Diego. Jeɗɗi. Jeetati. Jeenai. Sappo. E go'o. We're going to say the days of the week together. En innai yontere men, en yotai fi yontere men. Tenen, talata, alarba, alkamsa, juma, asewe, ala. Tenen, talata, alarba, alkamsa, juma, asewe, ala. Tenen, talata, alarba, alkamsa, juma, asewe, ala.